Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ha avuto un grosso scossone il sistema politico tedesco, si può quasi dire che sia imploso. Prima un sistema fondato sulla gara e su alleanze tra due partiti grandi e di volta in volta uno piccolo, adesso una frammentazione e certamente l'allarmante ingresso oramai già previsto nei sondaggi di una forza di estrema destra reazionaria. Questa è l'analisi in sintesi dell'emerito e presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano a proposito del voto che c'è stato in Germania. Ormai l'avete sentito, con Merkel che è al suo quarto mandato, quindi effettivamente un record, però non sono andate come sperava le elezioni, ha perso 8 punti, ha perso qualche milione di voto, e in più c'è questo ingresso per la prima volta dal dopoguerra dell'estrema destra nel Parlamento tedesco, anche se già si sta spaccando uno dei leader, uno dei due, quello più moderato, non ci sta a far parte del gruppo parlamentare. Insomma, ne parleremo, torneremo su un'analisi appunto del voto in Germania con una giornalista tedesca di un importante quotidiano tedesco. E poi però c'è da chiedersi quali sono le prospettive per l'Italia in questo contesto, no? Di Maio intanto, incoronato nel fine settimana candidato premier del Movimento 5 Stelle, Rimini dice il Movimento 5 Stelle è l'unico argine agli estremismi anche in Italia. Voi che cosa ne pensate? Ci occuperemo anche di un altro voto da un'altra parte del mondo, referendum per l'indipendenza osteggiato dalla gran parte della comunità internazionale. Parleremo di un sacco di fatti, quindi un sacco di notizie anche in questa settimana, cominciando da lunedì. Per i vostri interventi, i vostri commenti, le vostre osservazioni, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Quindi, prima di tutto, come sempre, vi racconto in sintesi la giornata. Le elezioni in Germania, il partito della cancelliera Merkel perde 8 punti, l'ultradestra entra in Parlamento ma già si spacca, Petri lascia il gruppo. Corea del Nord, Pyongyang dichiara, Trump ci ha dichiarato guerra, batteremo i loro aerei, ma la Casa Bianca smentisce. Movimento 5 Stelle, dopo l'incoronazione di Di Maio, proseguono i malumori nel movimento, ma il candidato premier sottolinea, noi siamo l'unico argine all'estremismo. Kurdistan, grande affluenza dei curdi iracheni al referendum per l'indipendenza dall'Iraq. Concorsi truccati, arrestati 7 docenti universitari, fra gli indagati l'ex ministro Fantozzi. Farmaci online, sequestri per 51 milioni e 400 arresti. Influenza alle porte, saranno 4-5 milioni gli italiani colpiti. Calcio, ricorso della Juve e della Procura contro la sentenza del Tribunale della FIGC sul caso Ultra. Partiamo quindi dalle elezioni politiche in Germania. Angela Merkel, la cancelliera, conquista il suo quarto mandato alla guida della Germania, ma vince piuttosto male lo scontro con l'SPD di Schulz, con i socialdemocratici, visto che la CDU, il partito della cancelliera, arretra di 8 punti. Ma lei è ottimista, annuncia colloqui sul futuro governo. Schulz conferma che vuole stare all'opposizione. L'estrema destra si conferma terzo partito in Germania, ma già si spacca, visto che Frauke Petri, co-portavoce federale, annuncia che non farà parte del gruppo in Parlamento. È un peccato, replica Alice Weidel, candidata alla cancelleria per appunto l'estrema destra, la FD, e a questo punto, aggiunge, dovrebbe lasciare il partito. Intanto il nostro presidente del Consiglio Gentiloni chiama la cancelliera e dice le difficoltà ci sono, inutile negarlo, ma avanti nell'impegno per l'Unione Europea. Poi tra poco ne parleremo, vi dicevo, con una giornalista di un importante quotidiano tedesco. Molte naturalmente sono state intanto le reazioni nazionali e internazionali, e nessuno nasconde la preoccupazione per l'affermazione dell'estrema destra. Compiacimento per la vittoria di Angela Merkel, ma anche timori per il futuro rilancio dell'Unione Europea. A Bruxelles sono queste le reazioni prevalenti, con il presidente della Commissione Juncker che avverte bisogna dare risposte adeguate ai cittadini, ribadendo la convinzione che l'Europa ha bisogno più che mai di un governo tedesco forte. Di diverso avviso il presidente dell'Europarlamento Tajani, secondo il quale il voto dimostra che la Germania ha bisogno dell'Europa e non più viceversa. Tajani però si dice preoccupato per l'ascesa di un partito anti-mediterraneo e anti-italiano, un segnale negativo per l'Italia. E timori di fatto serpeggiano anche nel nostro paese, uniti però alla volontà, dice il premier Gentiloni, di andare avanti per il rilancio dell'Europa. La migliore risposta all'estremismo antieuropeo è rispondere alle aspettative dei cittadini europei. Esultano invece Fratelli d'Italia e Lega, Matteo Salvini. Un buon segnale per l'Italia, che ne dicano tutti gli altri, anche per l'Europa. O l'Europa cambia o non ha senso di esistere. Un voto che allontana la Lega da Forza Italia, la quale si rammarica per la sconfitta della CDU, mentre 5 Stelle si propongono come contraltare le derive populiste. Siamo noi l'unico argine, dice Di Maio, parole in realtà simili a quelle del PD. Siamo noi l'unico argine ai populismi, dice l'europarlamentare Bonafè. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Insomma, vari argini poi dei quali parleremo. Adesso invece andiamo ad altri problemi. La crisi nordcoreana, Pyongyang ancora una volta all'attacco degli Stati Uniti, rivendica come diritto all'autodifesa la possibilità di abbattere ieri americani, dopo le parole del presidente Trump all'ONU, suonate a Kim Jong-un come una chiara dichiarazione di guerra. Il Pentagono replica facendo sapere di avere pronto un arsenale immenso a disposizione del tycoon, quindi di Trump, ma poco fa la Casa Bianca ha precisato che gli Stati Uniti non hanno affatto dichiarato guerra alla Corea del Nord, quindi ogni tanto si aggiusta il tiro, si cerca di mediare. Andiamo alla politica italiana con i 5 Stelle, dopo Rimini, sul tavolo per tutti la legge elettorale. Studia da Premier Luigi Di Maio, lo fa andando in visita al Talent Garden a Milano. Preferisce non commentare gli screzi con l'ala ortodossa del Movimento 5 Stelle guidata da Roberto Fico, ma a parlare di start-up, burocrazia e occupazione giovanile. Io sono in questo momento impegnato a cambiare le cose in questo paese insieme a tutto il Movimento 5 Stelle. Il nostro obiettivo deve essere questo, il resto non mi interessa. Convinto che l'Italia abbia un potenziale enorme, Di Maio spiega che se coglie l'occasione è destinata a diventare il primo paese attrattore di investimenti in Europa, ma sul fronte interno garantisce che non sarà previsto per lui nessun codice come per Virginia Raggi. Subito dopo però Di Maio fa tappa presso la sede della Casaleggi Associati. Intanto sulla legge elettorale accordo tra PD, Forza Italia e Lega, a Piccon Ettore Rosato dei Dem, che garantisce sarà legge alla Camera entro il 10 ottobre. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ora di nuovo all'estero, parliamo di Kurdistan, massiccia l'affluenza alle urne degli elettori curdi iracheni per lo storico referendum di indipendenza da Baghdad. Secondo i dati ufficiali alle 14 italiane, il 76% degli aventi diritto hanno votato spingendo la commissione elettorale a ritardare la chiusura dei seggi fino alle 19, ma l'Iraq è contrario all'indipendenza dei curdi, manda l'esercito e anche la Turchia ha annunciato ritorsioni. Quindi tra poco qui a Effetto Notte un inviato in Kurdistan ci aiuterà un po' a capire qual è la posta in gioco. Intanto questa notizia che riguarda gli Stati Uniti e il terrorismo. L'aviazione statunitense fu avvertita nel 2009 che le licenze per pilotare e riparare aerei erano state concesse anche a persone sospettate di terrorismo. 8 anni dopo quegli avvertimenti, molte di quelle persone sono ancora in possesso delle licenze per volare, secondo un lungo reportage del Boston Globe. Inoltre, la Federal Aviation Administration non prevede una foto identificativa per la licenza e non controlla le informazioni sui piloti prima di rilasciare, secondo i giornalisti che hanno indagato questi permessi. Il reportage del Boston Globe parte dalla storia del pilota di un piccolo aereo privato precipitato in Danimarca. I primi soccorritori trovarono un cittadino iraniano con precedenti penali e accanto a lui fu trovata una licenza statunitense con un nome che non era il suo. Pensate un po' la sicurezza anche da parte degli Stati Uniti. Ora di nuovo in Italia con la cronaca e parliamo di concorsi truccati e spartizione di cattedre. Una maxi operazione della Guardia di Finanza di Firenze. Sono stati arrestati 7 docenti universitari, indagato anche l'ex ministro Fantozzi. Avrebbero truccato concorsi nazionali rilasciando le abilitazioni all'insegnamento non per merito ma sulla base di logiche legate alla spartizione territoriale e allo scambio di favori reciproci. Sono tutti accusati di corruzione i docenti universitari di diritto tributario coinvolti nell'inchiesta della Procura di Firenze. Tra i 59 indagati figurano anche alcuni componenti di commissioni nominate dal Ministero. 7 sono finiti agli arresti domiciliari, altri 22 due sono stati invece interdetti dall'attività per 12 mesi. Fra gli indagati c'è anche l'ex ministro Augusto Fantozzi, che attraverso il suo legale si dichiara estraneo alla vicenda. Oltre 150 le perquisizioni eseguite in tutta Italia dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Firenze. L'inchiesta era partita nel 2014 dopo l'esposto di un ricercatore universitario che agli inquirenti aveva denunciato di aver subito pressioni per ritirare la sua domanda con lo scopo di favorire un altro candidato in possesso di meno titoli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora un'operazione internazionale contro i farmaci online. 25 milioni di confezioni di medicinali potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati per 51 milioni di dollari e 400 arresti nel mondo. Sono i numeri dell'operazione Pangea X, la più vasta contro la vendita illecita di medicinali online, condotta da Interpol, a cui ha contribuito anche Europol, la polizia europea. L'operazione ha coinvolto 179 tra polizie, dogane e autorità per la salute di 123 paesi, con l'apertura di 1058 inchieste e 3584 siti web oscurati. Occupiamoci anche di influenza. Il freddo è alle porte, sono previsti dai 4 ai 5 milioni di casi di influenza quest'anno. Il nuovo virus è una variante di quello dell'anno passato. Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano, lo sentiamo al microfono di Enza Loddo. Rilanciamo praticamente l'importanza della vaccinazione, che in questi anni era scesa. Lo scorso anno siamo sul 50% degli ultra 65 anni che hanno aderito. È importante questo, insieme a un comportamento di ordine generale e di attenzione a quelle che sono gli sbalzi termici, il lavaggio delle mani, e poi, se si è colpiti, alla cosiddetta automedicazione responsabile, cioè l'uso di farmaci sintomatici per attenuare i sintomi senza azzerarli, seguire l'andamento della malattia e consultare il medico se le cose non migliorano dopo i classici 3 o 4 giorni di malattia. Fondamentale evitare l'uso di antibiotici nella prima fase. Tutte queste forme, che siano vera influenza o sindromi simili influenzali, sono tutte dovute ai virus. Solo l'antibiotico da prescrivere da parte del medico se la situazione non migliora dopo 4-5 giorni, o a fronte di un lieve miglioramento poi peggiora, segno di una sovrainfezione batterica. Notizie da Sanremo, è ufficiale a questo punto, se ne è parlato varie volte. Claudio Baglioni sarà il direttore artistico del festival e il capitano della squadra che animerà dal palco del Teatro Ariston la 68esima edizione, in programma dal 6 al 10 febbraio 2010. I suoi partner nella conduzione saranno annunciati, come di consueto, si legge nella nota di Viale Mazzini, nella conferenza stampa del prossimo gennaio, a ridosso dell'inizio del festival. E poi, per quanto riguarda anche una notizia che riguarda gli animali, panda sono in aumento, no? Sono sempre stati l'emblema degli animali a rischio estinzione. Invece, proprio ora che il panda cominciano ad aumentare, il loro spazio vitale comincia invece a scarseggiare. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution, l'habitat dell'animale simbolo della Cina negli ultimi decenni si è sempre più ridotto e frammentato. Quindi, se da una parte aumenta il numero dei panda, dall'altro si riduce il suo habitat, e anche questo potrebbe poi riportarli un rischio estinzione. Per chiudere, una notizia che riguarda il calcio: un anno di inibizione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ammenda di 300.000 euro per il club bianconero. Questa è la sentenza del Tribunale Nazionale della Federcalcio nel processo al massimo dirigente juventino per i rapporti non consentiti con i tifosi ultra. La Procura federale aveva chiesto in realtà 30 mesi di inibizione per il presidente, 2 turni a porte chiuse per la società. Un tema che anche questo approfondiremo nel corso di Effetto Notte. A questo punto direi che la sintesi della giornata è chiusa, così adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo ad approfondire alcuni temi. Vedo già i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 sul voto in Germania e anche sulle dichiarazioni di Di Maio come argine, dice, il movimento all'estremismo in Italia. Ne leggo giusto almeno 2. Christopher, che dice: concordo, premesso che sono di estrema destra. Mentre Stefano dice: un talebano come Di Maio argine all'estremismo? In che senso? Ci sentiamo tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Le notizie ve le ho sintetizzate in questo racconto della giornata, come sempre, che sentirete se accendete puntualmente alle 21, se no ogni tanto vi ricordo i titoli principali, come farò tra pochissimo, prima di passare al primo argomento, l'analisi del voto in Germania, anche chiedendoci da dove viene in particolare questo voto che va verso l'estrema destra. E è dovuto soltanto al problema immigrazione oppure no? Intanto questi i titoli tra pochissimo. Voi per i vostri messaggi avete a disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per messaggi ed SMS che è 349-238-6666. Questi titoli: la Corea del Nord minaccia, batteremo i caccia di Trump. Gli Stati Uniti dicono il nostro arsenale enorme, ma non abbiamo dichiarato nessuna guerra alla Corea del Nord. E poi per la cancelliera Merkel, dopo le elezioni politiche, è un rebus come formare il governo. Lei però resta ottimista. L'SPD si chiama fuori, cioè i socialdemocratici. L'estrema destra già si divide. E poi concorsi truccati, arrestati 7 professori universitari, indagato anche l'ex ministro Fantozzi e la ministra dell'istruzione Fedeli dice: voglio andare fino in fondo in questa vicenda. Caso ultra Andrea Agnelli, presidente della Juventus, inibito per 12 mesi. Poi per quanto riguarda invece l'influenza, vi dicevo, ci attende un'influenza soft, ma molto dipenderà dal meteo. Previsti 5 milioni di casi su 12-15 milioni da diversi virus. E poi per quanto riguarda i vostri messaggi, stavo guardando ancora sulla pagina Facebook tra i vari, per esempio Francesco che scrive: se anche in Germania irrompono gli euroscettici c'è seriamente da riflettere. Mentre tornando sul Movimento 5 Stelle, Maurizio dice: quando è nato il Movimento ci credevo, ma ho visto che 5 Stelle rappresentano proprio il peggio dell'estremismo. Insomma, mi sembra che sia proprio così, questa è l'idea di Maurizio. Allora, naturalmente cominciamo dalle elezioni politiche in Germania che ci sono state questo fine settimana. Domenica la Germania è il paese locomotiva dell'Europa, no? Naturalmente il paese trainante, quello che ha il maggior potere decisionale in Unione Europea, quindi elezioni importantissime. Angela Merkel ormai si dà per scontato il risultato, il suo quarto mandato, quindi pensate da quanti anni governa, però non c'è stata la vittoria che ci si aspettava. Diciamo è una vittoria senza grande soddisfazione, perché la CDU, il suo partito, è arretrato di ben 8 punti. A farne le spese, tra l'altro, anche naturalmente i socialdemocratici dell'SPD, che sono andati molto male. Invece c'è stato un ottimo risultato per la destra estremista, che ha sottratto consensi un po' a tutti, rendendo difficile quindi la composizione del governo. Adesso vediamo quando si riesce a creare una maggioranza in Germania per la Merkel per governare. E la cancelliera, sempre che l'SPD rimanga nell'idea di non tornare, quindi la grande coalizione con cui hanno governato sinora in Germania, sarà costretta quindi la Merkel a delle trattative molto complesse. Ma prima di tutto vorrei coinvolgere Costanze Reuscher. Buonasera Costanze. Buonasera. Del quotidiano tedesco, giornalista del quotidiano tedesco Die Welt. Costanze, allora, prima di tutto cioè, ci si aspettava, c'erano già dei malumori, si pensava che davvero l'estrema destra avrebbe ottenuto cos'è, un 12% a questo punto? Sì, si sapeva, ci si aspettava questo risultato, perché in Germania i sondaggi sono abbastanza affidabili. Abbiamo alcuni grandi istituti che hanno vari metodi e quindi in realtà non si sono mai sbagliati, e neanche questa volta. Non si pensava a questo risultato, ma leggermente sotto, comunque eravamo lì, perché il dato molto importante è che questa forza politica è riuscita ad entrare al Parlamento, al Bundestag. Questa fa la differenza, perché è la prima volta nel dopoguerra che una forza di estrema destra xenofoba entra nel Parlamento della Germania, della Repubblica Federale. E la AfD, come si pronuncia? Sì, AfD. AfD, sì, in italiano. Senti, però, allora, c'è molta preoccupazione, no? Perché ci sono dei rigurgiti, diciamo, anche un po' nazisti. Appunto, in questa formazione politica, in questo partito? Sì, la Germania sarà la locomotiva, ma si vede che anche lei ha dei problemi. Questa forza politica preoccupa tanto, perché appunto ha delle caratteristiche di estrema destra, diciamo, neonaziste, anche loro lo negano ora dopo le elezioni, ma non è vero, perché il loro leader, uno dei due candidati, ha fatto ripetutamente delle, diciamo, battute sul Terzo Reich, ha elogiato quanto si stava bene, quante cose buone sono state fatte nel Terzo Reich, che uno finalmente oggigiorno può essere di nuovo orgoglioso della Reichswehr, di una serie di conquiste di quell'epoca, quindi non lascia dubbi a cosa si riferisce. C'è sicuramente anche una giovane generazione, questo è Gauland, che è un po' più anziano, invece c'è una giovane generazione che non è meglio, perché qui magari mancano le connotazioni neonaziste, ma sono altrettanto xenofobo e poi diciamo hanno promettono una grande chiusura sia nei confronti dell'integrazione europea che nel resto, per il resto del mondo. Quindi la co-leader Alice Weidel parla per esempio di una fortezza d'Europa, una fortezza Germania, cioè dei luoghi molto chiusi. Quindi non ci sono dubbi che si tratta di una forza di estrema destra, e questo in un paese come la Germania è una novità preoccupante. È preoccupante soprattutto perché, come dicevi, è la locomotiva d'Europa, in senso chiaramente soprattutto economico. Però si vede che anche noi abbiamo dei problemi ed è così, e forse questi problemi sono stati un po' emarginati. Questo problema è il problema numero uno. In questo senso è l'immigrazione, la crisi di immigrazione che abbiamo visto anche in Italia e che dal 2015 ha portato 1.400.000 persone in Germania. Però non è soltanto questo, ci sono delle zone in Germania dove l'idillio dell'economia che va, della bassa disoccupazione, della crescita, non ci sono. Sono delle zone periferiche delle grandi città o anche altre zone depresse dove c'è un alto tasso di disoccupazione sia tra la popolazione tedesca che da ancora più alto tra gli immigrati anche di vecchia data, e queste sono le zone che creano, diciamo, dei problemi sociali che si esprimono ora in questo voto. Costanza, quindi non è soltanto, diciamo, il punto debole della Merkel contro il quale c'è stato questo voto di protesta, non è stato soltanto la questione dell'immigrazione, ma quindi la Germania non è il paese della piena occupazione? Da quello che hai detto tu? Diciamo, nella media, così parla la statistica, è il paese della piena occupazione o quasi. Ci sono dei Länder come delle regioni come la Baviera che hanno il 3,8% di disoccupazione, che è praticamente fisiologica o niente. Ci sono altre zone nell'est e appunto nelle periferie di Berlino, altre grandi città, dove la disoccupazione ha delle punte di 15%, ancora peggio tra la popolazione immigrata. Quindi questo ti fa capire che è una società anche un po' divisa. La globalizzazione ha portato molta ricchezza in Germania, ma ha portato anche delle diseguaglianze. E quindi perdono in questa gara al mercato globale. E quelli esistono. Forse non si è guardato abbastanza loro, forse lo hanno fatto sicuramente anche le forze di sinistra, ma non hanno trovato delle risposte a questo generale sentimento di insicurezza. I tedeschi amano molto la sicurezza. Una serie di fattori hanno fatto sì che non si sentono sicuri. Questo possono essere questi grandi disagi sociali, parziali, possono essere la crisi di immigrazione, perché le grandi migrazioni fanno sempre paura, e può essere anche un generale quadro di insicurezza, di sicurezza mondiale. Prendiamo Trump e la Corea, il terrorismo internazionale, non sono fattori che rassicurano le popolazioni in tutta Europa. Quindi non solo sul proprio territorio, ma diciamo un po' globalmente. Costanze, ma quindi da chi arriva principalmente questo voto, questo consenso nei confronti dell'estrema destra in Germania? Questo è un voto trasversale. Attenzione, non è attribuibile a una classe sociale o a una classe politica. Gli elettori vengono vengono da tutte le parti, da tutti i partiti, soprattutto non hanno un'età, sono una fascia molto forte, è tra i 30 e i 50 anni e 60 anni più o meno, non sono particolarmente giovani o anziani, c'è un 30% di elettorato di cultura molto alta, istruzione molto alta, poi ci sono anche molti operai, però appunto come vedi è trasversale, non è un voto di una parte. Una categoria o una parte. No, no. Sì, però allora parte la preoccupazione, qualcuno però dice ma la Germania ha gli anticorpi della democrazia che sono abbastanza forti da non far temere delle scivolate estremiste, secondo te? Sono d'accordo, la Germania ha degli anticorpi assolutamente, dobbiamo preoccuparci di questo dato, però è una fortuna perfino che questa forza politica è entrata in Parlamento, sono 93 deputati che da domani devono fare vedere che sanno fare politica, che sanno stare in una rappresentanza politica di democratica, perché devono seguire le regole del gioco, loro devono seguire le regole del Parlamento, non sono più una forza extraparlamentare che è molto più pericoloso in questo caso. Per cui io penso che la Germania avrà gli anticorpi, è anche vero che sono il 12,6% e l'altro 87,4% del Parlamento è fatto rappresentato da partiti assolutamente democratici. Quindi, non c'è darà di questi altri partiti una populista, non c'è un'altra forza estremista che può preoccupare. È importantissimo che la Merkel, la cancelliera, riesce a fare una coalizione presto, che sia con l'SPD, che è poco probabile, o con i liberali e verdi, che è un po' più difficile, ma più probabile, e deve affrontare i grandi temi, non correndo dietro agli obiettivi di questi di estrema destra, ma convincendo i tedeschi che la democrazia, l'integrazione europea, diciamo anche un po' più uguaglianza in Europa e la politica umanitaria, l'immigrazione, l'inclusione e integrazione sono un vantaggio. Convengono. Se questo è tra l'altro il compito di tutti i partiti, da noi loro non possono solo dire Europa è bella, l'integrazione è bella, l'immigrazione è giusta, devono convincere che si può fare, che le persone che vengono possono essere integrati, possono vivere in una situazione sociale sopportabile. Quindi Costanze Reuscher, nel salutarti dico questa è una bella sfida per Angela Merkel al suo ben quarto mandato, quindi insomma sì. Non so quanti sono stati così longevi, però la sfida è proprio quella che non sia ricordato magari come il più difficile, come il peggiore. Grazie Costanze Reuscher, ricordo del quotidiano tedesco Die Welt. Grazie e sì. Buon lavoro Costanze. Grazie altrettanto, buonasera. Ciao. Noi siamo l'unico argine a quelli che sono gli estremismi in Europa, fermo restando che poi il voto dimostra anche che i partiti tradizionali in tutta Europa sono in declino. Questo ha detto quindi Luigi Di Maio dopo le elezioni tedesche. Coinvolgo subito la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, ciao. Buonasera a tutti. Quindi, così dice Di Maio, no? Che sono l'unico argine, che questo dimostra però al di là di tutto che i partiti tradizionali in Europa sono in declino. Certo bisogna dire che probabilmente sono in difficoltà, diciamo, i partiti che si rifanno a una sinistra riformista, no? Partiti socialisti, partiti socialdemocratici forse non hanno saputo intercettare il disagio, la richiesta di sicurezza, di equità sociale. Secondo te, Barbara, per quanto riguarda l'Italia, che è il paese credo più importante nel quale si andrà a votare a breve, no? Nel senso il prossimo è l'Italia, tra i paesi importanti dove ci sono le elezioni politiche, che cosa dobbiamo dedurre, che lezione possiamo imparare da queste elezioni tedesche? Ma io credo che ci siano due aspetti da sottolineare. Il primo è le difficoltà dei partiti di governo, perché un conto è stare all'opposizione, gridare contro, non so, il fenomeno dell'immigrazione, degli sbarchi, un conto è gestirli i problemi. E quindi c'è una difficoltà dei partiti di governo, a partire appunto, adesso stiamo parlando della Germania, della Democrazia Cristiana tedesca, ma anche dell'SPD. Poi per quanto riguarda invece la sinistra in generale, che è in crisi da tempo in Europa, cioè la sinistra non è stata in grado in nessun paese di trovare delle risposte ai problemi che venivano avvertiti dalla popolazione. Questo è stato il grande limite. Poi abbiamo avuto delle folate, per esempio ricordate Tsipras, no? in Grecia. Sì, però Tsipras adesso, ad esempio, secondo i sondaggi in Grecia è in grandissima difficoltà, perché appunto poi una volta che arrivi al governo Tsipras ha dovuto accettare il memorandum europeo, perché ripeto, un conto è stare all'opposizione, dire che le cose non vanno bene, e un conto poi doverli gestire i problemi. Se vogliamo fare un paragone, i 5 Stelle, vi ricordate quello che dicevano di Roma, e poi adesso governano Roma. Governare è sempre molto difficile. È evidente che adesso questo l'ondata tedesca, secondo me, va letta non soltanto rispetto al, come dire, all'avanzata della destra estrema, ma anche un altro aspetto, secondo me, che va evidenziato è l'avanzata del Partito Liberale tedesco, che alle ultime elezioni era rimasto escluso perché non aveva superato la soglia del ballottaggio, che sappiamo, la soglia di sbarramento, che è al 5%, e invece ha preso il 10%, se non sbaglio. Quindi ha raddoppiato i propri voti, e anche lì a chi l'ha tolti? L'ha tolti alla Democrazia Cristiana, cioè alla Merkel, e li ha tolti anche a sinistra. E perché questo? Perché ancora una volta lì non c'è il problema xenofobo con i liberali, il problema semmai è dell'integrazione a livello europeo, cioè tra europei, perché è un partito che vuole il rispetto delle regole sul bilancio, sul debito, e quindi... andrà peggio anche per l'Italia allora, a questo punto di vista. Ma certamente, secondo me, quello che si rischia veramente ora, al di là del, dell'effetto mediatico anche, no? Dell'ingresso, appunto, che un po' mi ricorda quello della Le Pen, secondo me invece c'è il rischio di il rallentamento del processo di integrazione europea. Questo sì, cioè secondo me è un rischio vero, e questo potrebbe alimentare poi i partiti estremisti in Italia come in altri paesi. Perché? Perché poi è il disagio sociale, anche tutto questo problema dell'immigrazione, di come viene vissuta, è perché noi viviamo in una situazione di disagio, come spiegava la collega tedesca, cioè in alcune periferie, in alcune aree anche della ricca Germania si vive meno bene che altrove, e quindi in quelle aree quei problemi diventano... Certo, noi abbiamo visto in questi giorni, Roberta, no? Tutti i problemi, tutti i drammi rispetto a stupri, violenze, chiaramente vengono caricati con un'enfasi che in altri periodi non c'era, e questo non fa che alimentare ulteriormente la paura e a spingere gli elettori verso posizioni più estremiste di destra, non c'è dubbio su questo. Barbara Fiammeri, ci sentiamo comunque in settimana, grazie intanto. Grazie a voi. Ciao Barbara, buona serata. Ci prendiamo questa pausa per i vostri messaggi, 349-238-6666, sms, whatsapp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete che siete al posto giusto, nel momento giusto, e con voi Roberta Giordano, se volete anche la conduttrice giusta. Riprendiamo allora a parlare di politica. Abbiamo parlato ampiamente del voto in Germania con la giornalista di Welt, del giornale tedesco, importante giornale tedesco, e poi abbiamo commentato, diciamo, le possibili ripercussioni anche sul voto italiano che ci sarà presumibilmente in primavera, le elezioni politiche, no? Quindi questo voto in Germania, che cosa insegna, che cosa si può dedurre da quelli che sono stati i risultati. Adesso rimaniamo sulla politica italiana, con in specifico il Movimento 5 Stelle. Intanto vedo molti vostri messaggi, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, con per esempio Enrico che dice: un parlamentare su 96 lascia il partito AfD, cioè Alternative für Deutschland, quello di estrema destra, e lei, si riferisce a me, definisce questa uscita una spaccatura. Si sapeva che la Frauke, in realtà Frauke è un uomo, Frauke Petri si chiama, non era più in accordo con il partito. È un leader storico, non sono io che lo dico, sono anche i vari analisti e i titoli di media vari che dicono effettivamente se uno dei due leader se ne va, insomma, già appena vinto, appena riusciti ad avere questo ottimo risultato, diciamo qualche problema all'interno c'è. Comunque, poi vedremo, come diceva la giornalista tedesca, adesso alla prova del Parlamento, come si comporteranno e come faranno politica. Poi invece altri messaggi, cioè per esempio ancora mi pare sulla Germania, se non sbaglio, vediamo se lo trovo, questo ascoltatore molto critico che dice i tedeschi hanno prima spolpato l'Unione Europea. Max, ecco, hanno spolpato l'Europa, l'hanno prosciugata, svuotata, ci hanno usati come utili idioti, insomma, questo punto di vista di adesso vediamo. Merkel è ottimista, certo rallenteranno le riforme europee, il rilancio dell'Europa che da varie parti si auspicava, probabilmente insomma frenerà un po' sicuramente. Adesso però vi dicevo, ritorniamo sulla politica italiana, vi ricordo velocemente i titoli più importanti della giornata. Le elezioni in Germania, il partito della cancelliera Merkel perde 8 punti, l'ultradestra entra in Parlamento ma già si spacca, Petri lascia il gruppo. Corea del Nord, Pyongyang dichiara, Trump ci ha dichiarato guerra, batteremo i loro aerei, ma la Casa Bianca smentisce appunto di aver annunciato una guerra. Movimento 5 Stelle, dopo l'incoronazione di Di Maio proseguono i malumori nel movimento, con Di Maio poi che dice ma però noi siamo l'unico argine all'estremismo, ne parliamo tra poco. Kurdistan, al referendum storico, grande affluenza, referendum per l'indipendenza dall'Iraq, e poi questa vicenda dei concorsi truccati, arrestati 7 docenti universitari, fra gli indagati l'ex ministro Fantozzi. Farmaci online, sequestri per 51 milioni di dollari e 400 arresti a livello internazionale. Per il calcio, ricorso della Juventus e della Procura contro la sentenza del Tribunale della FIGC sul caso Ultra. E allora saluto a questo punto Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Cara Manuela. Ciao Roberta, buonasera. Che ha partecipato a suon di piadini alla kermesse del Movimento 5 Stelle a Rimini, è vero Manuela? Verissimo, confermo. Kermesse che ieri ha designato e ha incoronato Luigi Di Maio, che è anche vicepresidente della Camera, come candidato premier per il Movimento 5 Stelle, nonché capo politico del Movimento. Grandi ovazioni, pubblico entusiasta, però anche qualche malumore, no? Che già era serpeggiato da diverso tempo, in particolare legato alla figura di Roberto Fico, che è il leader dell'ala ortodossa, considerato un po' il ribelle isolato in questo momento, e che sottolinea, sì è vero, le primarie ci sono state online, il risultato delle votazioni è pienamente legittimo, va rispettato, però insiste sul fatto che Di Maio può essere candidato premier ma non anche capo del Movimento. Quindi continuano queste tensioni, Manuela? Continuano le tensioni, sì, sotto traccia. Fico, devo dire, in maniera anche molto rispettosa, perché ricordiamo che non ha rilasciato interviste, non ha esternato in maniera scomposta, ha semplicemente rivendicato, come dire, l'anima movimentista delle origini contro quella che effettivamente è una normalizzazione del Movimento 5 Stelle. L'anno scorso dalla kermesse di Palermo Fico aveva avvertito dal palco contro i rischi dell'uomo solo al comando, e sono questi rischi che non vorrebbe vedere concretizzarsi nel suo movimento. C'è anche da sottolineare che Beppe Grillo tranquillizza, oggi il Fatto Quotidiano riporta le parole di Grillo, secondo cui appunto li ha rimessi in riga. È un romantico Luigi di carriera, e quindi sì, li ho rimessi in riga, vedrete che anche Roberto sarà nella squadra. Perché Casaleggio? Fico, scusami, Fico, esatto, perché lì ovviamente, diciamo, la partita poi si giocherà effettivamente sulla tenuta degli equilibri interni al movimento, e la tenuta degli equilibri interni al movimento si vedrà alla prova del 9 della costruzione della squadra di governo, comunque della squadra che dovrà traghettare il movimento verso il futuro, quindi anche verso le liste da costruire per le prossime elezioni. E lì la resa dei conti tra i pragmatici guidati da Di Maio e gli ortodossi guidati da Fico dovrebbe andare in scena. Si capirà se saranno estromessi e quindi se saranno premiati i fedelissimi di Luigi Di Maio, oppure se il movimento riuscirà a mantenere un'armonia tra le sue varie componenti, che va sottolineato, finora è stata anche la sua forza. Manuela, sentiamo, allora, prima ho fatto sentire Di Maio che diceva noi siamo l'unico argine in Italia all'avvento dell'estremismo, e poi sentiamo anche un passaggio, oggi era a Milano, in una Talent Garden di Milano, che è un po' il cuore di varie start-up, in cui ha parlato un po' del programma del Movimento 5 Stelle, sentiamo. Che cosa si deve fare? Prima di tutto lasciare in pace chi fa impresa in questo settore, e quindi meno leggi, meno burocrazia. La burocrazia è prima di tutto uno Stato che fa una legge ogni 2 giorni e mezzo e rende la vita un inferno a chi fa impresa. La seconda cosa è investirci. E poi la terza cosa è immaginare uno Stato che digitalizza la pubblica amministrazione, ma che allo stesso tempo permette al nostro Paese di, per esempio, creare un nuovo concetto di mobilità, 1 milione di auto elettriche entro il 2020. È un'idea di Paese da qui a 10 anni, a 15 anni, che non guarda alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni. Quindi, come titola qualcuno, Di Maio che studia da Premier. Senti, per chiudere, Manuela Perrone, lui ha detto per me non c'è nessun codice come anche per la Raggi, cioè non ha dovuto firmare niente, in quel senso intende? Che intende libero... in quel senso, sì, e quindi intende che non sarà vincolato come è accaduto per esempio a Virginia Raggi. Questo ovviamente scontenta chi si aspettava che fosse in qualche modo tenuto a freno. In realtà con quelle parole ha confermato che sarà capo politico a tutti gli effetti, a tutto tondo. Bene, si apre questo periodo fino alle elezioni, vedremo un po' come procede. Grazie intanto Manuela Perrone. Grazie a voi. Ciao Manuela, buon lavoro, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ora ve le ricordo in pochissimi secondi, guardo anche questo messaggio dell'ascoltatore che dice Alessandro, dice perché il rispetto delle regole che vogliono i liberali tedeschi dovrebbe rallentare l'integrazione europea, questo è un punto di vista troppo italocentrico dove non rispettare le regole è ritenuta una virtù, diciamo, c'è anche qualche base di fondatezza ma non del tutto nel messaggio di Alessandro. Comunque adesso parliamo di altro, ci spostiamo in un'altra area del mondo, vi ricordo molto velocemente che le notizie più importanti sono queste, appunto con la Nord Corea che minaccia gli Stati Uniti, dice batteremo i caccia di Trump, gli Stati Uniti fanno sapere di avere un arsenale enorme ma che non hanno dichiarato nessuna guerra alla Corea del Nord. Per la cancelliera Merkel, dopo le elezioni vinte ma non diciamo con grande soddisfazione, resta il rebus di come formare il governo. Lei ottimista, intanto l'estrema destra in parte già si divide. Concorsi truccati, arrestati 7 professori universitari, indagato l'ex ministro Fantozzi, la ministra dell'istruzione Fedeli dice voglio andare fino in fondo per capire che cosa è successo. E poi caso ultra Andrea Agnelli inibito per 12 mesi. Abbiamo parlato poco fa quindi del voto in Germania all'inizio di Effetto Notte. C'è un altro voto, seppure lontano da noi, seppure di un'altra dimensione, in un altro contesto, il voto in Kurdistan, nel Kurdistan iracheno, che è un referendum consultivo sull'indipendenza dei curdi dall'Iraq, un referendum storico, infatti c'è stata una grande affluenza alle urne, malgrado la netta opposizione di Baghdad, quindi dell'Iraq, anche della Turchia che minaccia delle ritorsioni, quasi tutti i paesi della regione sono contrari, eccetto Israele. Lì c'è l'inviato speciale del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. Io ho sintetizzato, ma spiegaci tu meglio di cosa si tratta, qual è la posta in gioco, perché sono tutti contrari tranne Israele, per esempio. Tranne Israele e tranne i curdi, perché sono adesso in questo momento mi sono spostato da Kirkuk Erbil, sono davanti alla piazza grande, davanti alla cittadella, ci sono delle manifestazioni impressionanti di giubilo, ma i curdi hanno messo da parte il buon senso perché la strada per l'indipendenza è tutta in salita e perché, come ricordavi tu, l'Iraq vede come il fumo negli occhi un Kurdistan iracheno indipendente. sarebbe una minaccia alla sua integrità territoriale nel momento in cui tra l'altro ha le finanze disastrate e le prese con l'ISIS. D'altro canto la Turchia, che è un alleato dei curdi iracheni, attenzione, nonostante combatta il PKK, organizzazione terroristica, è un alleato dei curdi iracheni, il suo principale partner commerciale ed è l'unico paese che gli permette di esportare il petrolio. Ecco, la Turchia teme che un Kurdistan indipendente possa riaccendere l'irredentismo dei curdi che vivono in Turchia e creare disordini. E lo stesso vale per l'Iran, che teme che i curdi che vivono, la minoranza curda che vivono in Iran, possano fare altrettanto. A quindi Iraq, Iran e Turchia sono assolutamente contrari e non solo minacciano. A questo punto le stanno anche adottando le misure, perché le frontiere sono chiuse con Iran, Iraq e Turchia. L'altra frontiera è con la Siria, dove c'è l'ISIS, se non è il caso. E gli aeroporti, le compagnie turche iraniane, i voli sono già stati sospesi, quindi si comincia ad avvertire il cappio sul Kurdistan, che è un paese però senza sbocchi sul mare. Questo cosa significa? Se le minacce del presidente turco Erdogan dovessero tradursi in fatti, allora sarebbe un bel guaio per il Kurdistan. Perché? Perché Erdogan ha minacciato di chiudere l'oleodotto Kirkuk-Ceyhan, che è l'unica pipeline che permette ai curdi di esportare il petrolio, e il petrolio per i curdi è tutto, il 95-97% delle entrate governative, immaginatevi voi. Senti, dico una cosa banalissima e proprio da neofita, ma non potrebbero i vari curdi di cui parli, quindi in Iran, in Iraq, in Turchia, unirsi in un, sarebbe impossibile unirsi in un unico stato, cioè concentrarsi tutti insieme? No. Ah, il sogno del grande Kurdistan va avanti da molto tempo, però sono tutti questi molto ostacoli, poi mi sembra sì che sia molto esatto. Complesso. Mm? Beh, va detto che i curdi sono una nazione un po' sfortunata. Se proprio brevemente risaliamo la loro storia, allora era stata promessa con il trattato di Sèvres un futuro stato curdo nel 1920, poi le grandi potenze europee, Inghilterra e così via, si rimangiarono tutto dopo tre anni a Losanna e disegnarono questi confini dritti sulla linea Sikh-Picot e si vennero a creare questi stati e i curdi furono un po' sparigliati. Da allora hanno cercato in tutti i modi di riunirsi, ma il problema attuale dei curdi è che sono divisi. I curdi iracheni sono di Barzani, per esempio il presidente del Kurdistan iracheno, sono nemici del PKK, che è nemico della Turchia, mentre i curdi siriani nel Rojava sono nemici del PKK. Insomma, c'è quindi una a loro volta, insomma, forte. Ho capito, molto, molto intricata. E poi il problema maggiore, sintetizzando una realtà che è molto più complessa di quanto io dico, è che all'interno dello stesso Kurdistan iracheno il panorama politico è devastante. Ci sono dei partiti che amministrano le singole regioni e province come dei propri feudi, con proprie amministrazioni. C'è il PUK e il KPD, quasi non si parlano. Barzani voleva il referendum, il PUK lo voleva perché non poteva non volerlo, ma lo voleva rinviare, e rinviarlo forse sarebbe stata la scelta più opportuna in questo momento, perché oltre ad aver avuto così la netta opposizione di Iran, Iraq, abbiamo già detto, e Turchia, il referendum del Kurdistan iracheno è stato vivamente sconsigliato, per utilizzare un eufemismo, dagli stessi Stati Uniti, che sono alleati dei curdi iracheni e gli hanno fornito le armi, dalla stessa Europa, dello stesso ONU. Insomma, era un referendum che volevano solo i curdi. E che adesso si vedrà come finisce, Roberto Bongiorni. Vedremo quali sono i risultati e quali sono le reazioni. Il risultato sarà scontato, sarà un plebiscito, non può essere altrimenti. Adesso si attende una normalizzazione dei rapporti e si spera che le minacce turche che ha ammassato il confine l'esercito, gli iracheni che hanno ammassato il confine l'esercito, non si concretizzino, non creino un'altra area di conflitto. Poi il referendum si è svolto soprattutto nei territori contesi, territori che non fanno parte del Kurdistan iracheno, che è una regione autonoma, ma in territori che i peshmerga turchi hanno conquistato per scacciare l'ISIS, la maggioranza curda, però che appartengono all'Iraq. Quindi è una questione molto complessa e molto tesa, che può scombussolare l'intero Medio Oriente. Grazie Roberto Bongiorni dal Kurdistan. Grazie. Ciao Roberto, buon lavoro. Invece qui seduto comodamente davanti a me c'è Dario Ricci. caro sì, Dario. Insomma, sentire Roberto Bongiorno e dice poi non ci lamentiamo della sinistra italiana, ma insomma, i curdi con tutti questi varie correnti infinite. Senti, invece la vicenda della Juventus e di Agnelli ce la spieghi in poche parole? Ma direi sì che è sintetizzabile così, c'è stata questa sentenza, oggi 12 mesi di inibizione per il presidente della Juventus, Agnelli, 300... inibizione nel senso che non può rappresentare il club in diverse situazioni in ambito nazionale, in alcune anche in ambito internazionale, 300.000 euro di multa al club, ma è la sentenza di primo grado relativa al caso del bagarinaggio dei biglietti allo Juventus Stadium, a quello che era lo Juventus Stadium, perché sai, da luglio si chiama Allianz Stadium. Cioè, sintetizzo così, cioè lui avrebbe avallato le condotte illecite, leggo, dei suoi dirigenti che scendevano a patti con gli ultra pur di tenere buone le tifoserie. Sì, di fatto questa dice la sentenza, che c'era... appunto questa pratica di venire a patti con gli ultra che chiedevano dei biglietti, e c'era la consapevolezza che questi biglietti poi venivano venduti attraverso i canali non ufficiali, quindi il mercato nero, perché quello è il bagarinaggio. Però la sentenza dice anche, ed è per questo che sono inferiori le condanne rispetto alle richieste della procura, che non c'era invece consapevolezza che gli esponenti ultra con cui Agnelli e gli altri condannati entravano in contatto, non c'era la consapevolezza da parte della dirigenza bianconera che alcuni di questi fossero anche esponenti della criminalità organizzata, dell'andrangheta. Ecco, mancava quindi questo dato di evidenza. Per questo sentenze, condanne ridotte, e per questo anche la procura ha annunciato ricorso in appello rispetto a questa prima sentenza di primo grado, così come ha deciso di fare anche la Juventus e i rappresentanti legali di Agnelli, perché gli uni volevano l'assoluzione piena, gli altri invece, la procura invece aveva chiesto 30 mesi e addirittura per il club 2 gare a porte chiuse e un'ulteriore gara con la chiusura della curva bianconera. Vediamo come andranno questi ricorsi. Sì, diciamo che si è giocato il primo tempo di questa partita. A proposito di calcio. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao caro Dario, noi ci sentiamo brevemente come sempre alle 22.